in primo piano. Oggi le aperture sono diversificate, voglio iniziare dal Sole 24 Ore. Cambia il welfare in Europa, nella bozza del nuovo patto UE un riferimento al debito sostenibile, con anche il focus su Parigi, che ha deciso di alzare di 2 anni l'età pensionabile, mentre Madrid riforma il lavoro e annuncia lo stress test sulle banche. Mentre il Corriere della Sera apre sulla vicenda di case e potere, stretta sulle case del Vaticano. Il Papa e Bertone chiedono maggiori controlli dopo lo scandalo. Le ultime rivelazioni riguardano ancora il capo della protezione civile Bertolaso sul suo appartamento. Ha detto: mi aiutò il cardinal Sepe, cardinale di Napoli, che era all'epoca a capo di Propaganda Fide. Ma poi le intercettazioni. La Repubblica, legge bavaglio, Berlusconi frena. La Stampa, intercettazioni, ora Berlusconi sceglie il rinvio. Il Messaggero, intercettazioni, si rinvia. Per Libero, l'imbavagliato è Silvio. Non ce la faccio più. Rassegnato a far slittare il DDL intercettazioni. Queste alcune delle aperture, io inizierei proprio dalle intercettazioni. Beh, c'è questa cifra che ieri ha fatto Berlusconi, vale a dire 150.000 i telefoni sotto controllo, tenendo conto che almeno ognuna di queste persone parla con una cinquantina di altre, fa 7 milioni e mezzo di italiani che possono essere ascoltati. Queste cifre è la cifra che oggi fa discutere sui giornali, ma davvero sono 7 milioni e mezzo gli italiani che possono essere ascoltati? E c'è da dire che l'Associazione dei Magistrati ha detto non sono 150.000, ma semmai sono 132.000 i bersagli dell'anno scorso. Fa una differenza di 20.000, ma soprattutto è il metodo in sé che viene contestato. Per esempio su Repubblica, in prima pagina, Piero Colaprico: gli intercettati sono solo 26.000. Cosa fa Repubblica? È andata a sentire le società che mettono le utenze sotto controllo per le procure e scrive Piero Colaprico: i numeri reali smentiscono la versione di Berlusconi. Il dato ufficiale del Ministero è appunto questo, 132.384 i bersagli intercettati. Ma non sono persone e non sono case. Ogni bersaglio, come viene definito, corrisponde a un numero di telefono. Ma sentite cosa spiega per esempio Elio Cattaneo della SIOS, una delle società di intercettazioni più attive. Se si conta che un italiano medio dispone di un telefono cellulare, più uno aziendale, più uno fisso a casa, più parenti stretti eccetera, noi calcoliamo che intercettare una persona vuol dire mettere sotto controllo un numero di 5,3 telefoni / bersaglio. E dunque il risultato è all'opposto dei milioni di ascoltati. Prendiamo le persone che abitano in Italia, circa 60 milioni, le dividiamo per i 132.000 bersagli del Ministero, divisi a loro volta per una media di circa 5 telefoni a bersaglio, il risultato porta a circa 27.000 persone intercettate, vale a dire lo 0,045%, una persona ogni 2.200 abitanti. Secondo il senatore Ligotti dell'Italia dei Valori, addirittura è più facile vincere al lotto che essere ascoltati. Insomma, la diatriba è questa. Intercettazioni, qual è il numero? Il numero che ha fatto il Presidente del Consiglio, che fa discutere, e poi fa anche discutere l'utilizzo in sé. Sentite per esempio cosa dice Nicola Gratteri a pagina 2-3 della Stampa, dove peraltro viene pubblicata una foto che non è sicuramente quella del procuratore della DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che è uno che si occupa di lotta all'andrangheta. Viene intervistato da Guido Ruotolo. Gratteri: è il mezzo più economico quella dell'intercettazione, è il mezzo più economico e garantista. Se per esempio dobbiamo seguire un trafficante o un faccendiere da Reggio Calabria a Roma, con l'intercettazione l'operazione ci costa 11 euro più IVA al giorno. Se dobbiamo organizzare un pedinamento, dobbiamo mobilitare almeno 3 pattuglie di 2 persone ciascuno. Faccia lei somma del costo, stipendi, benzina, autostrada, vitto e alloggio per almeno 6 persone. E anche Gratteri sul numero delle intercettazioni dice: ogni anno aumentano le utenze. 20 anni fa per ogni 5.000 abitanti c'era un cellulare. Oggi per ogni abitante un cellulare e mezzo. Il cellulare è un mezzo di comunicazione di affari leciti e illeciti. Pensate che a me in un'inchiesta è capitato di dover fare in 2 anni una media di 10.000 utenze da intercettare, perché ogni indagato ha cambiato in media 200 utenze telefoniche. A volte gli spacciatori fanno una telefonata di 20 secondi e poi buttano la scheda. Ecco qui il mistero, secondo Gratteri, del fatto che tanti bersagli intercettati. Perché? Perché le persone intercettate cambiano spesso cellulare, cambiano, buttano via le schede. Comunque, al di là del numero in sé che ha dato Berlusconi, che viene contestato da chi lavora nel campo, c'è la questione politica, che è poi quella più rilevante al di là del numero. E allora, vedete un po' come titolano i giornali, per esempio il Corriere a pagina 3, spunta l'ipotesi del voto a settembre, il voto non il voto politico, ma il voto al DDL intercettazioni. I Berlusconi e i berlusconiani avevano detto bisogna fare prima dell'estate. Fini ha detto: perché tutta questa fretta? Abbiamo lavorato 2 anni, c'è la calendarizzazione in aula. Ed ecco allora che il voto pare possa slittare a settembre, tanto che il Riformista titola in prima pagina: Berlusconi cede, premier possibilista sul rinvio a settembre, mentre Libero è più esplicito. Libero in prima pagina, come detto, parla di un Berlusconi, l'imbavagliato è Silvio, Salvatore Dama, cartoline dai paradisi tropicali, o la barca più bella dei Caraibi, la villa di Bermuda, la villa d'Antigua, ama elencare i suoi beni d'oltreoceano Silvio Berlusconi, e non è per sfoggio di ricchezza, ma per esibire il suo autolesionismo. Potrebbe godersi la vita il cavaliere, invece gli tocca stare dietro a un mucchio di rompiballe. Che succede? Che il primo giorno fa argine con l'ottimismo, il secondo tiene duro, il terzo stringe i denti, ma poi, ed è inevitabile, arriva il momento dello Xanax. Io non ce la faccio più. Così si sarebbe sfogato, secondo Salvatore Dama su Libero, il presidente del Consiglio ieri a Palazzo Grazioli ai capigruppo e coordinatori del PDL. Un premier che si mostra rassegnato, demoralizzato, addirittura depresso. Il presidente del Consiglio non ha poteri, ma chi me lo fa fare? Torno a fare l'imprenditore o me ne vado in pensione? Così aveva detto poche ore fa la Confcommercio. C'è anche un Maurizio Belpietro che dice: Berlusconi si liberi di chi lo logora. E c'è la foto di Fini, immancabile, l'attacco a Fini anche oggi sul giornale, proprio sul tema delle intercettazioni, a pagina 9. Manuela Fontana scrive: ecco come Gianfranco Fini si indignava con le intercettazioni, la vicenda del 2006, quando il suo portavoce ex Sottile fu indagato, intercettato dalla procura di Potenza da Woodcock nel 2006. E allora Fini che diceva: disdicevole e immorale pubblicare le intercettazioni di persone non indagate che hanno l'unico torto di essere legate a persone famose, gogne mediatiche che non fanno onore a chi le mette in campo. Così diceva Fini, e oggi il giornale glielo rinfaccia. Ma insomma, invece c'è un Berlusconi che, anche secondo Repubblica, dice non ce la fa più, soprattutto con Fini, no? A sbottare il rapporto, che è un rapporto di logoramento davvero, davvero continuo e quotidiano. Sempre sul fronte intercettazioni leggo il foglio inizia con Giuliano Ferrara, quello che ha tanto l'aria di una sorta di appello, oggi viene messo in prima pagina con caratteri in titolo in rosso, in difesa di un diritto, la privacy. È un appello che inizia così: la legge sulle intercettazioni, la nostra opinione che non debba essere offuscato o marginalizzato il principio liberale costituzionale della riservatezza delle comunicazioni, perno della privacy. Gridare intercettateci tutti significa dimenticare il massacro di umanità che si è compiuto nel Novecento per la pretesa del potere di interferire nelle vite degli altri. Significa ritenere che lo Stato possa ogni cosa. Significa cancellare l'articolo 15 della Costituzione. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione fu considerata dai costituenti inviolabile. Ecco allora l'appello e le prime firme. Pierluigi Battista, Alessandro Campi, Francesco Cundari, Raffaele Lacapria, Roberta Mazzoni, Piero Stellino, Angelo Panebianco, Giampaolo Pansa, Andrea Romano, Susanna Tamaro. Poche firme, ma immagino che, visto che parte oggi questa sorta di appello, da domani vi terremo aggiornati, vedremo un po' chi firmerà questo appello in difesa della privacy. Questo per quel che riguarda il tema intercettazioni, che è un tema strettamente, vediamo, anche politico. Così come l'altro politico è quello della manovra E come detto, ci sono le regioni in subbuglio. Io tra l'altro vi annuncio oggi alle 9, Oscar Giannini ospiterà il presidente della regione Formigoni, della regione Lombardia. Formigoni è uno dei quelli più accaniti nel dire questa manovra non va bene. L'ha definita lo Stato un padre sciamannato. Tra l'altro oggi fa un'intervista anche al Corriere della Sera a Elisabetta Soglio e Formigoni non cede, anche se Bossi gli ha detto non esageri, Formigoni. E Formigoni però invece continua. Danneggiamo i cittadini e anche Bossi lo sa. Caro Bossi, non sto affatto esagerando, inizia così l'intervista di Formigoni. Rispondo a Umberto Bossi, lo sai anche tu, lo vede chiunque, che questa manovra mette fuori gioco le regioni. Quindi non ritratta la posizione, proprio no, anzi aggiungo che la posizione è condivisa da tutti i presidenti di regione, compresi gli amici Zaia e Cota, cioè cita i due leghisti, presidente di Veneto e Piemonte. Dice Formigoni, il Ministero del Tesoro ci riconvochi tutti al tavolo e pare, tra l'altro, almeno si legge da Dino Pesole sul Sole 24 Ore, che il governo voglia aprire anche alle regioni. Berlusconi ha detto sì al confronto, non si tocchino i saldi, ma il confronto sì. Anche se c'è da dire che ieri già Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, ricordate in prima pagina dell'editoriale, ha detto ma queste regioni che dicono tanto i tagli, ci hanno tagliato i soldi ma dobbiamo mantenere gli stessi servizi, quindi o aumentiamo le tariffe o diminuiamo i servizi. Però queste regioni dovrebbero guardarsi anche un po' in casa sugli sprechi. Oggi anche Vittorio Feltri ci torna e Mario Aiello sul Messaggero. Sentite, snocciolo alcune cifre che fanno veramente impallidire. La casta delle regioni. In Calabria, i consiglieri guadagnano più di Sarkozy. I siciliani si sono regalati 5.000 euro per il proprio futuro funerale. Questa è una storia che era già uscita, cioè ci sono 5.000 euro accantonati per i deputati siciliani per il loro futuro, speriamo lontanissimo, funerale. Quanto ci costano i consiglieri regionali? Mario Aiello, pagina 4 del Messaggero. Pesa o più uno di loro sulle casse pubbliche italiane che un premier spagnolo o della Francia o del Brasile. Un eletto alla regione Calabria percepisce al netto 11.316 euro al mese. Zapatero si ferma Zapatero a 7.296. Sarkozy 6.714. Lula non arriva a 3.000. E non ci sarebbe da tagliare niente nei regni dei governatori della penisola, in quelle caste regionali che da decenni sottraggono immense risorse su cui si fondano e su cui fondano la propria fortuna? Per restare in Calabria, un consigliere regionale, scrive Mario Aiello, guadagna più dei suoi omologhi di Belgio, Germania e Svizzera messi insieme. Anche perché, vabbè, la Svizzera si guadagna zero, perché la politica non è un mestiere. In Germania si guadagna 2.280 euro lo stipendio del consigliere regionale. In Belgio 5.500 euro, quindi insomma sommando Germania, Belgio e Svizzera che è zero, non si guadagna tanto quanto un consigliere regionale della Calabria. Ma poi insomma altre citazioni, per esempio i presidenti, Vendola in tasca 12.716 euro della regione Puglia. Ci sono insomma dei costi che le regioni possono sicuramente tagliare. Bertolaso e l'alloggio mi fu concesso dal cardinale Sepe. Questa del rapporto casa e potere è davvero una vera e propria telenovela, no? Che continua. Le ultime rivelazioni sono dell'interrogatorio di due giorni fa di Bertolaso. L'appartamento di Via Giulia, leggo dal Corriere della Sera, una gentile concessione del cardinal Sepe, che allora era capo di propaganda Fide. Tra l'altro il Corriere fa sapere fu subito rimosso da uno dei primi atti da parte del nuovo Papa Ratzinger, un atto anche inconsueto, visto che in genere si sta per tanti anni a capo di propaganda Fide, mentre il Cardinal Sepe lo è stato pochi anni. E Bertolaso ha detto: mi venne dato tutto dal professor Francesco Silvano, collaboratore di propaganda Fide, e a indirizzarmi da lui fu il Cardinal Sepe. Ora, ovviamente, i magistrati vogliono sentire questo professor Silvano, sul quale c'è un giallo, perché si parla, insomma, che sia in condizioni di salute. Qualcuno dice, il Corriere, ieri voci arrivavano a descriverlo come gravissimo. Invece la Curia di Napoli, dove Silvano ha l'incarico di economo, minimizzano. Lo troverà tra un paio di giorni. Certo, ora è la vicenda, e Bertolaso ha detto, mi fu concesso al Cardinal Sepe a canone zero. Quindi, insomma, mi fu data una casa così in affitto a canone zero, concessa, con il proprietario, sempre questo proprietario Curi, che continua a dire e continua a smentire: sentite, io ogni mese ricevevo delle buste e sono andato a controllare, me le dava queste buste l'architetto Zampolini. Insomma, chi mente, si chiede il Corriere della Sera, chi mente? Bertolaso, che dice era un alloggio a canone zero, tramite avuto tramite questo professor Silvano e grazie all'intercessione del Cardinal Sepe, e Curi, il proprietario, che dice io ricevevo i soldi. Su Repubblica addirittura c'è quello che ha l'aria di essere uno scoop, perché Carlo Bonini racconta il fatto che i magistrati hanno fatto requisire alcune carte delle quali è entrata in possesso Repubblica, evidentemente, alcune carte alla sede dei servizi segreti nei giorni scorsi. La vicenda è molto complicata, è spiegata a pagina 6 e 7 da Carlo Bonini, ma si parla della vicenda della famosa acquisto della casa dell'ex ministro Scajola. L'appalto SISDE fu gonfiato per pagare la casa di Scajola. La vicenda sarebbe questa: c'era un appalto originario di 3,5 milioni di euro per ristrutturare alcuni fabbricati, vinse una società di Diego Anemone, meglio, fu dato l'appalto alla società di Diego Anemone. Improvvisamente i costi, secondo la ricostruzione di Repubblica, lievitarono in una serie di riunioni da 3 milioni e mezzo a 12 milioni questo appalto, con una serie di modifiche, e questa cifra fu, sempre secondo Repubblica e secondo i magistrati, come ipotesi gonfiata, perché con questa cifra gonfiata uscirono l'acquisto delle case dell'allora ministro Scajola e del generale della Guardia di Finanza Pittorru. La ricostruzione però dettagliata a pagina 6 e 7 di Repubblica. C'è molto anche della vicenda Gaspare Spatuzza, pentito di mafia, uno che ha vari omicidi alle spalle, tra cui quello di Don Puglisi, e che poi ha deciso di collaborare dopo tanti anni, si è pentito. Ora ha fatto anche ha tirato in ballo, insomma, al processo dell'Utri anche il presidente del Consiglio Berlusconi, e parlando di possibile collegamento, secondo delle testimonianze che ha dato De Relato, come si suol dire, cioè Berlusconi era un possibile referente politico per i fratelli Graviano, che erano dei boss di Brancaccio. Questo ha detto Spatuzza in una famosa deposizione al processo dell'Utri. A Gaspare Spatuzza non è stata concessa la protezione da parte dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno come pentito. Spatuzza scrive ai PM: continua a collaborare l'ex boss, chiedo garanzie sulla mia vita. Questo sul Corriere, ma guardate anche l'apertura, per esempio, o ci scrive Marco Travaglio sul Fatto, e anche Marco Lillo in prima pagina del Fatto: la vendetta, c'è una strategia dietro le ultime mosse di maggioranza, la scelta di togliere al pentito Spatuzza il programma di protezione, l'accelerazione sulla legge Bavaglio, il trattamento duro ai giornalisti che svelano gli scandali berlusconiani, colpirne uno per educarne 100. Questo secondo il Fatto. C'è anche Rita Borsellino, la sorella di Paolo Borsellino, visto che Spatuzza ha fatto nuove rivelazioni anche sulla strage di Via D'Amelio, autoaccusandosi di essere coinvolto in quella strage, e così dicendo: sono io che ho portato la macchina con l'esplosivo, non è la persona che pensavate essere stata fino ad ora. E Rita Borsellino dice: forse togliendogli la protezione non vogliono arrivare alla verità, usano un cavillo, e cioè il fatto che Spatuzza non abbia raccontato tutto nei 180 giorni previsti per pentirsi. Questo prevede la legge, per questo è stata negata la protezione, perché ha fatto delle dichiarazioni fuori tempo massimo. E Rita Borsellino dice: ma questa norma è superata in altri casi, i magistrati hanno spiegato che si è trattato di approfondimenti di cose anticipate in termini previsti. E poi comunque il concetto è: ma la vogliono la verità? Vogliono provare a scoprirla? Sembra proprio di no, dice Rita Borsellino. Comunque la pensiate, oggi Filippo Facci invece su Libera dice: il fatto che non sia protetto è colpa dei giudici, proprio che non hanno rispettato questi tempi di 180 giorni per raccogliere le sue testimonianze, e dunque è tutta una questione burocratica di termini di legge. Noi vi chiediamo invece se sia una questione politica, dovete votare su radio24.it, ne parleremo poi tra un'ora. Che dire, c'è solo da concludere con le ultime due segnalazioni. Questa, anche Sergio Rizzo oggi, dopo ieri La Stampa, si cimenta su Diego Cammarata, che noi stiamo cercando, il sindaco di Palermo, che doveva andare in tribunale, che ha convocato per la vicenda dei rifiuti, che è problematica a Palermo. Non è andato dal magistrato, ha detto impegni improrogabili e inderogabili. L'impegno inderogabile era che Cammarata è in viaggio in Sudafrica per seguire gli azzurri. Non sappiamo se sia rientrato, lo stiamo cercando. E infine, ma che succede? L'Unione Europea, lo leggiamo da tutti i giornali, vuole, adesso non dico bandire, ma mettere in difficoltà la Nutella. Nutella, come le sigarette, nuoce alla salute. È un nuovo regolamento che imporrà un'etichetta in cui si avverte che alcuni prodotti dolciari possono favorire l'obesità. No, dai, adesso non è pubblicità, ma però non toccateci per favore la Nutella, cari signori dell'Unione Europea. Questo almeno no, non fatecelo.